Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Una buona serata e un buon sabato, gentili ascoltatori, ben ritrovati con Nessun luogo è lontano, l'appuntamento con la grande attualità internazionale. La squadra a confezionare con me questa puntata di quest'oggi: Laura Fagin, Nadia Zammitti, a dargli musica e ritmo invece c'è Pietro Lacorte. E vi ricordo che anche quest'oggi potete interagire con noi con commenti o domande alla mail nessunluogo@radio24.it, gli sms al 349-238-6666, poi c'è il profilo Facebook Nessun luogo lontano trattino Radio 24, e infine potete cinguettare anche su Twitter Nessun luogo 24. Allora oggi ripartiamo da dove ci eravamo fermati il sabato scorso, e cioè in Tunisia. Sulle note del rap di El General, che è stato un po' un simbolo della musica contro il regime di Ben Ali, continuiamo a analizzare questa fase di transizione estremamente importante e delicata che sta vivendo il paese maghrebino. A 2 settimane dall'attacco all'ambasciata USA, una settimana dalla grande manifestazione davanti all'ambasciata francese, transizione politica, dicevo, c'è una costituzione che l'Assemblea Costituente sta scrivendo e sta inserendo, soprattutto i deputati di Ennahda, del Partito Islamista al potere, stanno inserendo articoli che preoccupano gli ambienti più liberali tunisini. Se ci avete seguito sabato scorso sapete che nella nostra missione a Tunisi abbiamo incontrato Nadia Gelassi, un artista. Contro Nadia è stato aperto un fascicolo per disordini. Disordini seguenti a un'esposizione del giugno scorso, da cui appunto sono scaturiti violenti scontri e anche un morto. Le foto di quelle opere le trovate sul nostro profilo Facebook Nessun luogo lontano trattino Radio 24. Noi seguiremo questa odissea giudiziaria di questa artista, odissea giudiziaria artistica anche personale, vi terremo aggiornati. Ma volevo riproporvi quella che è stata una domanda chiave in quel momento. Era un paragone, abbiamo chiesto a Nadia un paragone tra quella che è stata quella provocazione, vi ricordate il film L'innocenza dei musulmani, e poi ancora le caricature pubblicate in Francia da Charlie Hebdo. Insomma, ne esce un punto di vista interessante da parte di un artista. Innanzitutto quello che vorrei dire da un punto di vista generale è che io mi troverei a disagio, in qualità di artista, nel condannare l'espressione di una persona, anche se è stupida o deficiente o quant'altro. Una persona che mette in rete un documentario o un film per provocare, il problema è che è stato fatto in modo anonimo e non si sa come sia successo. Quello che so invece è che è stato messo in rete in luglio e che è stato strumentalizzato solo in settembre. Ed è su questo che mi faccio delle domande. Come film, come prodotto, è talmente ridicolo, talmente farsesco, che si potrebbe paragonare a Buster Keaton dal punto di vista estetico. So anche che tutti i dialoghi sono stati montati in un secondo tempo, quindi si tratta di immagini che sono state recuperate, e quando si è scoperto, l'attrice si è detta mortificata. Nessuno l'ha presentato come qualcosa di artistico o di... io non so cosa sia. Mi sembra tutto poco chiaro. Riguardo a Charlie Hebdo, è altrettanto poco chiaro. Capisco che in Francia la libertà sia stata raggiunta tramite delle battaglie, eccetera, quindi sono liberi di fare ciò che vogliono del loro giornale, non li condanno di certo. Ma dato che oggi noi viviamo in un'epoca molto speciale e ci troviamo inoltre all'interno di una globalizzazione mediatica, questo significa che quello che succede, che so, in Brasile, può avere delle ripercussioni qui da noi e viceversa. Forse i giornalisti, i disegnatori o i caricaturisti devono integrare questa nuova dimensione nel loro lavoro, il che non significa che si debbano censurare, ma la loro responsabilità e il loro limite di artisti è che devono riflettere sulle conseguenze delle loro azioni. Questo è anche un modo per avere un controllo del proprio lavoro. Come artista, faccio un appello agli altri artisti, disegnatori o altro, a prendere coscienza di questa dimensione di globalizzazione mediatica e a riflettere un po' su quello che mettono nelle immagini o su quello che scrivono in una dimensione mondiale, soprattutto in considerazione del fatto che in Tunisia oggi siamo in un paese molto particolare. Ci troviamo in una fase di transizione. Saremo presto impegnati a dover definire, in modo a dir poco appassionato, la Costituzione tunisina. E questo invece è il brano Ma Tunisi di Psycho M, che invece è un'altra formazione rap che è pro-islamista e celebra appunto l'anima musulmana della Tunisia. Nadia Gelassi lo ricordava, la Tunisia sta vivendo questa fase di transizione estremamente delicata, fondamentale. Il 23 ottobre è in qualche modo una data chiave perché scade sulla carta il potere del governo transitorio, l'Assemblea Costituente però è estremamente in ritardo, vedremo come si evolverà la situazione. In questo quadro, in questo complesso panorama politico in cui è Nada, il partito islamista, è come dire capofila di questi partiti che nel regime di Ben Ali non avevano assolutamente spazio, ebbene in questo quadro fa capolino Tahrir, che è una formazione, un movimento islamista che è un movimento mondiale a base a Beirut, ha ufficio anche a Londra, e noi insomma siamo andati a Tunisi nella neosede per incontrare Ahmed Tatar, che ci spiega la proposta politica di Tahrir. Tout d'abord le parti Hizb Tahrir. Noi di Tahrir, partito riconosciuto a livello internazionale, vogliamo ristabilire il sistema del califfato. Cioè noi non diamo alcuna legittimità al sistema repubblicano, democratico, liberista, socialista. Mettiamo tutto nello stesso insieme, che noi chiamiamo laicità, perché la laicità è un insieme vuoto che ha permesso ai socialisti e ai capitalisti di aderirvi. Il 23 ottobre i partiti politici non potranno che dilungarsi. La Costituzione non è pronta e il dibattito è sempre più duro tra i diversi orientamenti, anche su questioni secondarie. Ad esempio, la questione di piccoli principi, come, cito l'esempio, c'è l'uguaglianza o complementarietà tra uomo e donna? Si inizia a parlare e non si va più avanti. Non si parla di consenso, ma di diserzione. E allora nel dibattito finisce che uno dei due partiti diserta il dibattito stesso. L'uno dei due partiti va desertare questa battaglia. Questa è la voce di Ahmed Tatar, che è responsabile di Tahrir, neonata formazione islamista, neonata nel senso che in Tunisia sotto Ben Ali non aveva modo di esprimersi. Come avete sentito, la proposta è il califfato, che suona, se volete, un po' fuori dal tempo. Lui stesso ammette, sì, è forse un sogno, ma questo è un sogno che ha una concretezza, una sua possibilità di realizzazione. Allora lo abbiamo solleticato su un paio di questioni. Ad esempio, abbiamo chiesto: nel califfato sarà in vigore ovviamente la Sharia, e allora ci dobbiamo aspettare, per esempio, il taglio delle mani al ladro? Ascoltiamo. Ces obligations de couper la main d'un voleur. L'obbligo di tagliare la mano di un ladro allorché ci si trovi in un sistema economico musulmano che obbliga lo Stato a procurare sostentamento a tutti i cittadini musulmani, cristiani, anche ebrei, nonostante quello che possano fare gli ebrei. Possiamo parlare degli ebrei di Gerba, per esempio, ma sono cittadini anch'essi e hanno lo stesso diritto anche se non hanno partecipato alla rinascita e alla rivoluzione araba. Dopo aver applicato tutto, il sistema è una sanzione giusta che tutta la nazione è chiamata ad applicare. Ma come applicarla? Bisogna scegliere una persona che rappresenta i musulmani per l'applicazione di tutta la legislazione, la regolamentazione in materia economica, sociale, salute, potere, politica, eccetera. Dopo aver fatto tutto ciò, ci sarà una magistratura, un sistema di sanzioni. Ed è il califfato che rappresenta la Umma, la comunità musulmana. Una sola persona che applichi tutta la legislazione di tutti i campi. Non ci saranno tre teste. Ecco una delle differenze con il sistema liberale che cerca di disperdere il potere. L'Italia, soprattutto, ha molto sofferto per questa dispersione del potere tra potere legislativo ed esecutivo e i problemi tra i due poteri. Abbiamo visto che i due poteri non riuscivano ad andare avanti perché uno ritirava la fiducia, eccetera. Alla fine dei conti, quando avanza la democrazia? La democrazia avanza allorché c'è uno stesso orientamento, quando il potere legislativo rappresenta il potere esecutivo. On peut parler di dictature, c'est vrai. Sì, è vero, si potrebbe chiamare dittatura, ma solo nel caso in cui fosse il califfato a mettere in vigore le leggi. Il califfato invece sceglie solo le leggi islamiche, quindi non rappresenta la sovranità. La sovranità nel sistema islamico è rappresentata dal Corano e dalla Sunna. Nel califfato non ci sarà più bisogno di rubare, ma se ci saranno le condizioni, per un ladro la legge è chiara. C'è un versetto del Corano che dice che la mano del ladro deve essere tagliata. E tagliare la mano a un solo ladro per dare l'esempio ad altri milioni. E couper la mano ad un solo voleur per dare l'esempio ad altri milioni. Per sintetizzare il messaggio politico di Tahrir è stato un lungo incontro, una lunga intervista. Vi dirò anche che gli Stati Uniti sono il grande nemico politico, la Sharia, come avete sentito, è la base dell'ordinamento legislativo e il califfato unirà tutto il mondo musulmano. Queste le coordinate dell'utopia di questo movimento. I toni morbidi però di Tahrir non cancellano un'intervista del leader Belagi di un anno fa che ipotizzava ribellione e disobbedienza civile per raggiungere lo scopo. E aggiungo un altro particolare che è emerso da questa intervista: lo stesso Tahrir ha ammesso che all'inizio di questa rinascita un ruolo potrebbero giocarlo i militari, cioè coloro che detengono la forza. E allora, già come sabato scorso, ci viene in soccorso un esperto del mondo islamico, che è Stefano Allievi, sociologo, esperto appunto di Islam. A lui abbiamo chiesto, lui che conosce da vicino il movimento perché ha partecipato a riunioni anche a Londra, quanto può incidere nello scenario politico tunisino la proposta di un califfato. Allora, Tahrir è un movimento globale che si presenta anche in Tunisia con l'ambizione utopica di restaurare il califfato. In un certo senso sarebbe come un partito in Occidente oggi riproponesse la rivoluzione d'ottobre, la quarta internazionale, l'idea di appunto una palingenesi di tutti i sistemi governativi statuali dell'area. È chiaro che il califfato non è all'ordine del giorno, rimane come ipotesi suggestiva perché per i musulmani corrisponde alla lettera d'oro dell'Islam. Il tadoro dell'Islam era poi discutibile, nel senso che dal punto di vista degli studiosi occidentali, se dei primi quattro califi detti ben guidati nell'Islam, i primi tre sono morti assassinati, probabilmente un periodo di storia pacifico e solo costruttivo ovviamente non è. Ma detto questo, rimane un richiamo suggestivo, appunto stimolante, ma ho fatto il parallelo con i movimenti rivoluzionari occidentali, la quarta internazionale, i trotskisti, eccetera, perché forse non si va oltre quello come appeal. Ecco, quanto supporto popolare può ottenere un movimento in Tunisia giovane come questo, perché ricordiamo che sotto Ben Ali non aveva alcuna possibilità di palesarsi e di presentarsi? Allora, la variabile tunisina per Tahrir è interessante perché lì, essendo una situazione in cui la democrazia è giovane, i partiti sono giovani e i partiti islamici comunque hanno un ottimo supporto popolare, è chiaro che possono aspirare a un ruolo maggiore di quello cui ambiscono senza riuscirci in Occidente, in Inghilterra soprattutto, o in paesi come il Pakistan e altri paesi dell'Asia centrale dove hanno molti loro riferimenti ideologici. Questa è l'utopica proposta del califfato. Adesso c'è il GR e poi Nessun Luogo Lontano vi porterà nel gelo politico della Bielorussia. State con noi. Nessun luogo è lontano. Le 19:36 in questo esatto istante, gentili ascoltatori, ancora una buona serata e ben ritrovati a Nessun Luogo Lontano. Dunque, come promesso, vi porto da quella che è stata e che è tuttora la calda stagione tunisina al freddo e al gelo politico di Minsk in Bielorussia. E in questo viaggio di migliaia di chilometri ci accompagnano le note dei funk rapper, del gruppo funk rapper dei Neurodubel, sicuramente la pronuncia sarà sbagliata, è uno dei tanti gruppi, diciamo, della dissidenza artistica musicale bielorussa che tra i pochi palcoscenici che hanno a disposizione c'è quello polacco del Festival di Basovizza. E appunto queste note ci accompagnano proprio per cercare di capire meglio che cosa è accaduto. Domenica scorsa si è votato in Bielorussia per la Camera Bassa, per il Parlamento. Prima di entrare dentro la questione del voto, ascoltiamo insieme la fotografia del paese. Divenuta indipendente nel 1991, dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, la Bielorussia è una repubblica parlamentare guidata da 18 anni dal presidente Aleksandr Lukashenko. Con una popolazione di quasi 10 milioni di abitanti, un quinto dei quali di minoranza polacca, la Bielorussia mantiene da 20 anni una politica estera di sostanziale isolamento, eccezion fatta per lo stretto legame con la Russia, da sempre essenziale dal punto di vista economico e politico. Una delle regioni più prospere dell'Unione Sovietica, la Bielorussia si è progressivamente impoverita dal momento in cui è divenuto uno Stato indipendente. Il presidente Lukashenko si è fermamente opposto ad ogni forma di privatizzazione e di apertura del mercato interno. Impresa privata e investimenti stranieri sono inesistenti. Dal 1994 ad oggi, Lukashenko ha progressivamente irrigidito il sistema poliziesco, aumentato i poteri derivanti dal suo ruolo e ridotto le libertà politiche per gli abitanti del paese. Nel corso degli anni, decine di esponenti dei partiti d'opposizione e di figure contrarie al regime sono scomparse o andate soggette a pesanti condanne. Molte sono detenute per aver partecipato a manifestazioni di protesta. Il senso di identità nazionale dei cittadini bielorussi è debole e nel 2005 la Bielorussia è stata identificata dagli Stati Uniti come l'ultimo avamposto della tirannia in Europa. Osservatori politici stranieri e associazioni per i diritti umani denunciano dal 2001 la non democraticità del sistema politico bielorusso e l'assenza di libertà di informazione e di espressione. Nel 2008, in seguito alla decisione di rilascio di alcuni attivisti da parte della polizia, Unione Europea e Stati Uniti hanno tentato un dialogo di avvicinamento e alleggerito le sanzioni politiche prese contro il governo bielorusso. Ma tutti i tentativi sono falliti dopo la rielezione di Lukashenko nel 2010 e la sua riluttanza nei confronti delle richieste occidentali. L'asse con il Cremlino rappresenta la sola politica estera della Bielorussia, ma il rapporto con la Russia è di profonda dipendenza, dato che da questa arrivano i flussi di gas e petrolio necessari per soddisfare sia i consumi interni che quelli diretti verso i paesi europei. Questo è il quadro del paese nel quale gli elettori sono andati alle urne, appunto dicevo, domenica scorsa per le elezioni parlamentari. Su 110 seggi, 109 sono stati assegnati al partito di maggioranza, quello di Lukashenko. L'opposizione ha in effetti disertato fondamentalmente alla fine della campagna. E giro immediatamente la domanda, un primo commento a Matteo Mecacci, onorevole deputato italiano e a capo della missione di osservazione OSCE a Minsk, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Onorevole Mecacci, buonasera intanto. Sì, buonasera a voi. Buonasera, fra l'altro la raggiungiamo non a Minsk ma a Tbilisi in Georgia, perché si vota il 1 ottobre, quindi sta andando a svolgere le sue funzioni di osservatore elettorale anche lì. Ma torniamo a Minsk. Come si sono svolte queste elezioni? Che giudizio dare? Ma le elezioni in realtà non hanno visto una competizione tra dei candidati, perché fin dall'inizio della campagna elettorale le principali personalità dell'opposizione non hanno potuto partecipare, o perché sono ancora in prigione dopo gli eventi e quello che veniva ricordato, le elezioni presidenziali del 2010, a cui è seguita una forte repressione e l'incarcerazione di quasi tutti i leader dell'opposizione. Altri sono in esilio e ad altri è stato impedito di poter presentare la propria candidatura. Quindi un'elezione in cui i cittadini non sono liberi di poter scegliere tra diversi candidati con delle proposte alternative, in cui non c'è possibilità di parlare liberamente oppure di organizzarsi attraverso delle associazioni o dei partiti politici, o anche di manifestare secondo quelle che sono le regole a cui tutti i paesi che fanno parte della comunità internazionale e in particolare dell'OSCE hanno aderito, non possono considerarsi elezioni libere. Questo è un dato che purtroppo conferma la tendenza che veniva descritta nella scheda che è stata fatta e che comunque vede il controllo del potere politico in quel paese saldo ancora nelle mani di Lukashenko. Ecco, onorevole, la vostra presenza lì come osservatori, come missione, avete puntato il dito, insomma, avete bocciato questo voto. Secondo lei è servita a dare in qualche modo, come dire, non una spallata, uno scossone, però insomma a far riflettere un po' il regime? Vi sono state aperture, perché ho letto, di rilascio di detenuti politici? Qualcosa si è mosso, oppure, come dire, Purtroppo la vostra presenza non è valsa ai noi a molto. Sì, no, va detto che il fatto che le autorità bielorusse abbiano invitato una missione di osservazione elettorale di per sé in questo contesto che appunto di assoluto isolamento, ad esempio nei rapporti con l'Unione Europea, è stato di per sé un fatto positivo, perché almeno c'è stato un canale di dialogo. Io ho incontrato due volte il nuovo ministro degli esteri, che è una persona che ad esempio sta nella lista nera dei paesi dell'Unione Europea, ma che evidentemente sta cercando anche di rannodare un filo di dialogo. In particolare per i rapporti con l'Unione Europea è molto importante la sorte dei detenuti politici in quel paese. Si parla di 14-15 persone che sono detenute appunto per attività legate alla loro attività politica e non per reati comuni o reati, diciamo, che possono essere perseguiti legittimamente in un paese democratico. E il prossimo 15 ottobre l'Unione Europea ha l'appuntamento di ridiscutere e rivedere le sanzioni che sono state prese nei confronti della Bielorussia. Quindi evidentemente a Minsk c'è la consapevolezza che un isolamento a oltranza rischia di accentuare ancora di più una dipendenza politica ma anche economica nei confronti di Mosca, che nel corso di questi anni ha acquisito un ruolo sempre più preponderante nella vita di quel paese. E anche allo stesso Lukashenko questa sicuramente non è una prospettiva che può essere considerata la migliore. Quindi qualche timido tentativo c'è stato, come appunto il rilascio di questi due detenuti politici e l'accettazione della richiesta che avevamo fatto affinché il rappresentante della Santa Sede, l'arcivescovo Claudio Guggerotti, fosse autorizzato ad andare a trovare in carcere queste persone che dal 2010 non avevano mai avuto la visita neanche della Croce Rossa Internazionale e neanche appunto di nessuna missione diplomatica. Quindi credo che i fatti, e quindi una realtà difficile anche dal punto di vista economico che ha affrontato e rischia di affrontare nel futuro a breve la Bielorussia, possa portare anche a qualche decisione di riavviare un dialogo politico anche con l'Unione Europea. Perché insomma, se vogliamo essere, come dire, omaggiare la realpolitik, la chiusura totale certamente non porterà, come ha fatto finora, buoni frutti. Io ringrazio l'onorevole Mekacci, capo della missione di osservazione OSCE a Minsk. Buon lavoro, buona serata, buon lavoro a Tbilisi, appunto. Grazie. In Georgia. Riesco a dare il mio buonasera a Francesca Bogeri, che nell'ambito della stessa missione ha analizzato il panorama mediatico bielorusso. Però prima c'è il traffico, quindi le informazioni sulla viabilità, e poi cercheremo di capire meglio come i media bielorussi hanno affrontato la campagna elettorale. Nessun luogo è lontano. Ancora il rock pesante dei Neurodubal, questa band che canta in bielorusso e non può esibirsi a Minsk. Stiamo cercando di analizzare l'appuntamento elettorale di domenica scorsa, appunto in Bielorussia. Siamo con Francesca Bogeri, che è media analyst, cioè lei durante le campagne elettorali in giro per il mondo studia e analizza come i mezzi di informazione trattano i diversi candidati e trattano le elezioni. Bogeri, buonasera. Buonasera Don Paolo. Allora, la prima domanda è questa: come possiamo definire il panorama mediatico bielorusso in sintesi? Io commenterei il panorama mediatico bielorusso attraverso i diversi rapporti di ONG locali e internazionali come Reporter Senza Frontiere, Freedom House, che definiscono la Bielorussia uno dei paesi con il più basso rispetto per la libertà di espressione nel mondo. Secondo questi rapporti la Bielorussia è al 193° posto su 197 paesi analizzati ed è anche nella lista dei nemici di internet, grazie al recente decreto presidenziale secondo cui tutti gli utilizzatori, gli utenti di internet devono essere registrati, identificati, i dati trattenuti per un anno e resi disponibili alle agenzie investigative. Durante queste elezioni uno dei fatti più gravi è stato appunto la detenzione di alcuni giovani amministratori di social network che discutevano temi ritenuti sensibili come la possibilità di boicottare le elezioni da parte di alcuni partiti di opposizione. Sì. Ovviamente la rappresentante della libertà di stampa dell'OSCE si è espressa duramente su questo fatto gravissimo. Ecco, come hanno potuto lavorare i media legati all'opposizione o quantomeno anti-regime, anti-Lukashenko? avendo nominato la parola opposizione, credo sia importante dire che questa è stata una campagna elettorale invisibile nella maggior parte del paese, e come appunto ha spiegato Matteo Mecacci, le elezioni non sono state inclusive. C'è stata una strategia da parte dei media statali di marginalizzare e depersonificare l'opposizione, che non veniva mai nominata per nome, per esempio nei notiziari era completamente assente, quindi l'opposizione era inesistente. I veri protagonisti di questa campagna sono stati proprio il presidente, che non era un candidato, i membri del governo e la commissione elettorale, che in molteplici occasioni ha infranto il ruolo neutrale che avrebbe dovuto avere. Detto questo, i media con un contenuto politico che possiamo considerare indipendenti e che abbiano dato spazio all'opposizione sono stati pochissimi nel paese, alcuni di loro che vorrei nominare, la televisione Belsat e Radio Ras, che operano e trasmettono dalla Polonia e qui a Minsk lavorano in condizioni di semiclandestinità, non hanno ottenuto dopo anni di richieste la registrazione in Bielorussia e quindi continuano a lavorare in condizioni precarie e molto pericolose, soprattutto durante le campagne elettorali. Questa è la situazione che, se vogliamo, un po', come dire, lo specchio anche di quella che è la mano pesante di Lukashenko dal punto di vista politico, si riflette inevitabilmente anche sui mezzi di comunicazione di massa che, appunto, spiegava Boggeri, lavorano in semiclandestinità. Fra l'altro non è un caso che, come il festival musicale di cui facevamo cenno prima, si svolga in Polonia, molte dei media appunto lavoravano dalla Polonia, ma evidentemente non è bastato, lo ripeto, 109 seggi su 110 alla fine sono finiti nelle mani del partito di Lukashenko. Ringrazio Francesca Boggeri, media analyst, per essere stata con noi, buona serata e buon lavoro nel freddo di Minsk. Grazie a te Gianpaolo. E adesso abbiamo il tempo per cambiare decisamente pagina e parlare di Sudan e Sud Sudan. Perché? Perché martedì 25 settembre i due paesi, Khartoum e Juba, hanno siglato un accordo per la sicurezza sulle rotte dell'esportazione di petrolio dal sud, dove sono concentrati appunto la maggior parte dei giacimenti petroliferi, per far arrivare il greggio al nord, dove si concentrano invece le raffinerie. Il braccio di ferro tra i due paesi va avanti da tanto, tanto tempo. Ad aprile ci sono stati episodi di guerra non dichiarata, ma bombardamenti nella zona al confine, ricordo su tutta la zona di Abyei, di Ida, dove si concentravano i profughi, zone sterminate, zone lunghissime, a volte sono semidesertiche, ma ricchissime, ricchissime di petrolio. Fra l'altro la zona di Abyei rimane zona contesa nonostante appunto il Sud Sudan dal 9 luglio del 2011 sia indipendente. Bene, non si sono messi d'accordo perché non si è svolto il referendum per sapere a chi, a quale dei due Sudan volessero appartenere i cittadini di Abyei, non si è svolto quel referendum e quindi Abyei è una zona di limbo che ancora, come dire, rimane al centro di questo braccio di ferro tra i due paesi. E così, vi dicevo, martedì scorso, dopo 5 giorni di summit nella sede dell'Unione Africana ad Addis Abeba, i due ministri della difesa si sono messi d'accordo nel nome del petrolio. Noi abbiamo raggiunto Padre Kizito, che è un missionario combaniano, un uomo tutto d'un pezzo, che conosce molto bene, frequenta da anni prima il Sudan e adesso anche il Sud Sudan. Lui che difende i diritti della popolazione Nuba in Sud Kordofan, a lui abbiamo chiesto cosa cambia con questi nuovi accordi sul petrolio. Ma noi speriamo sempre che si arrivi alla pace vera e duratura, anche in nome del petrolio, purché si arrivi alla pace. Tutti e due i paesi, Sudan e Sud Sudan, hanno bisogno delle entrate provenienti dal petrolio, quindi speriamo che questo accordo tenga. È d'obbligo essere scettici, perché l'indipendenza, la scissione del Sud Sudan dal Sudan è avvenuta poco più di un anno fa e in questo anno abbiamo visto 1000 volte avvicinarsi la guerra, abbiamo visto fare accordi che non sono stati mantenuti, abbiamo visto guerra vera e propria non dichiarata come è successo in aprile di quest'anno al confine. È tutto molto molto incerto, non siamo sicuri di quello che succederà. Il governo del Sudan ha un record terribile di accordi firmati e non mantenuti. Purtroppo, incidentalmente, ieri mattina, mentre firmavano la pace, il Sudan bombardava i Monti Nuba, il Southern Kordofan, la seconda città del Southern Kordofan, che è in mano a quelli che loro chiamano ribelli, i ribelli Nuba, ha bombardato Iban facendo un morto e 6 feriti, cercando di bombardare, per fortuna i loro bombardamenti sono molto imprecisi sempre, bombardando un posto dove in quel momento ogni settimana c'è il mercato, quindi volutamente cercando di colpire i civili. E sulla vicenda semi dimenticata, che passa sempre troppo spesso sotto traccia, soprattutto in Europa, della popolazione Nuba, 1 milione di persone nello stato del Sud Kordofan che appartiene al nord, ma è una popolazione difesa da ribelli appoggiati dal sud. In realtà fra nord e sud Sudan c'è un gioco, una partita a scacchi di gruppi ribelli finanziati dall'una e dall'altra parte, e come avete sentito anche dalle parole di padre Kizito, la situazione è tutt'altro che pacificata. E dicevo, torneremo sicuramente nelle prossime settimane a parlare di Sudan. Abbiamo pochi minuti, 1 minuto e mezzo prima di chiudere, allora volevo rispondere a un commento che è arrivato su Facebook sulla Tunisia. Facciamo un passo indietro. Un ascoltatore che vado a recuperare giustamente dice: beh, è il califfato, la proposta utopica, in realtà vi fu un periodo di restaurazione anche dopo la rivoluzione francese. Sì, verissimo, è anche vero che però il califfato, in questa lunga intervista che abbiamo avuto con Ahmed Tatar, pensate che prevede un califfato unico in tutto il mondo musulmano. Quindi una volta che come dire, un paese, e poniamo il caso la Tunisia, riesce a istituire il califfato anche con l'aiuto dei militari, quindi in qualche modo, come dire, si allude a un possibile utilizzo della forza, ebbene da lì poi bisognerebbe coinvolgere tutti gli altri paesi del mondo musulmano. Beh, insomma, se non è utopia questa, poi tutte le mani raccolte nelle mani di un solo califfo. 19:55 i titoli di coda, perché mancano 30 secondi, quindi non mi resta che ringraziare Nadia Zammitti e Laura Faggini in redazione, Pietro Lacorte che ha dato musica e ritmo a questa puntata, voi gentili ascoltatori per essere rimasti con noi all'ascolto. L'appuntamento è sabato ore 19:15. Un saluto da Giampaolo Musumeci e vi ricordo che nessun luogo è lontano.